come nulla di meno comunque di partecipare a questi due giorni che abbiamo contribuito a organizzare a livello non solo italiano ma globale, e proprio per la nostra lotta è una lotta transnazionale e che quindi coinvolgerà in realtà paesi di tutto il mondo l'8 e il 9 marzo, abbiamo deciso di pensare a delle modalità alternative per fare parte di queste due giornate che in realtà sono estremamente sentite da tutte e tutto in modo molto forte. Infatti anche la decisione di rinunciare al corteo è stata abbastanza dolorosa per quanto estremamente necessaria viste le situazioni e anche le considerazioni che abbiamo fatto in queste ultime settimane. Come modalità alternative abbiamo pensato alla possibilità di indossare il 9 marzo qualcosa di fucsia, che sia un pannuelo, un nastro, qualsiasi cosa che possa simboleggiare la partecipazione anche solo simbolica a questa giornata. Inoltre abbiamo pensato che nel caso qualcuno voglia, appunto, può anche farsi un video e lanciare l'hashtag lotto tutti i giorni. A questo si aggiunge anche la possibilità di appendere qualcosa alla finestra, ai balconi, sempre qualcosa di fucsia, o chi ce le abbia delle bandiere di non una di meno, o chi ce le abbia de pannuelo. Stiamo anche cercando di capire se lasciare stillette e pannuelo in alcuni posti amici. Oltre a questo c'è anche una partecipazione sempre virtuale che può essere fatta tramite la scrittura delle motivazioni che avrebbero portato alla partecipazione dello sciopero dell'8 marzo e che comunque ci portano a essere parte di questa lotta tutti i giorni, che può essere mandata per messaggio sia vocale che invece scritto sulla pagina di Non Una Di Meno e che verrà pubblicato durante la giornata del 9 marzo. Questi messaggi qua in realtà li stiamo anche già raccogliendo e sono tantissime infatti le lavoratrici e i lavoratori che avrebbero aderito a questi due giorni e anche allo sciopero e che appunto si trovano a non poter scioperare perché l'autorità garante ha dichiarato l'impossibilità dello sciopero, che però comunque appunto ci mandano i loro messaggi e comunicati di lavoratrici per segnalare comunque la loro presenza, ecco. Inoltre, infine, alle ore 4 dell'8 marzo, quindi di domenica, invitiamo ad affacciarsi alle finestre, ai balconi, alle case, alle porte, organizzandosi o anche da sole, e fare una cacerolata per 3 minuti durante le 4 dell'8 marzo, urlando e manifestando appunto dalle case la propria rabbia e gioia femminista. Un aspetto che sottolineate anche nell'ultimo vostro comunicato riguarda nello specifico appunto questa emergenza sanitaria, che in realtà evidenzia quelli che sono problemi strutturali del patriarcato, in particolare il peso del lavoro di cura che ricade sempre sulle spalle delle donne. Sì, infatti la nostra decisione a non scioperare è anche derivata da questo, cioè dalla situazione in cui ci troviamo in questo momento, che è una situazione sicuramente di contingenza e di emergenza, ma che anche ci permette in questo momento di sottolineare quella che in realtà è per noi una condizione di normalità. Il ritorno alla normalità che viene invocato dai giornali, dai media e da tutti quanti, in realtà è un ritorno che ribadisce semplicemente quelle che in questo momento sono condizioni sicuramente drammatizzate da questo momento, ma che comunque ricadrebbero sulle spalle soprattutto di donne e in particolar modo spessissimo anche di migranti. Basti pensare alla situazione in cui adesso in questi giorni si possono trovare le badanti nelle case, per cui appunto l'assenza di welfare, di misure di welfare e di sanità pubblica fanno ricadere sulle loro spalle il peso di servizi e di cure che dovrebbero essere pensati in un altro modo e essere sicuramente più collettivizzati. Per cui appunto la nostra decisione di non scioperare è sicuramente stata anche influenzata da quella dell'autorità garante, perché sono previste sanzioni per chi sciopera, però dall'altra parte è anche stata una presa di responsabilità. Moltissime sono state i messaggi che ci sono arrivate da parte di lavoratrici e di donne in generale che ci dicevano: avremmo voluto partecipare, abbiamo sempre partecipato, ma adesso in questi giorni non possiamo perché dobbiamo curare persone a noi vicine e questa cura ricade appunto su di noi. Dall'altra parte abbiamo però appunto operatrici della sanità, farmaciste e altre lavoratrici che in questi giorni invece si trovano ad avere sulle spalle totalmente il peso invece produttivo che viene comunque portato avanti durante questa emergenza sanitaria, e loro dall'altra parte appunto avrebbero voluto scioperare ma appunto non possono per il divieto dell'autorità garante. Per cui ci siamo trovate a mettere insieme queste due necessità che in realtà stanno assolutamente insieme, come è assolutamente evidente.